E passiamo ad un'altra novità. Nel frattempo che cambiamo microfoni, un'anteprima del prossimo lavoro dei Placcaggio. Che uscirà il 31 ottobre, Ziggurat. Questa è Anticristo. Tempo verrà al fine, in cui il giorno sarà notte e la notte sarà il regno della vita. Musica diverrà ogni stridore e canto dolcissimo il gemito di oggi ed il lamento. Tempo verrà in cui la luna divorata dal grande drago stenderà una coltre di buio eterno. E io sarò il padrone delle tenebre come della luce. Quando il sole bruciato avrà ogni messe, quando i fiumi saranno asciutti, quando ogni essere umano giacerà senza vita, allora trionferà il male, padrone assoluto, e dominerà la terra. Stesso posto, stesso bar, giù in piazzetta radu. Non ve lo facciamo sentire tutto, eh? Yeah. No, io lancio anche un appello. Io ho bisogno di un assistente qui in trasmissione. No, e tra l'altro gli assistenti di fine trasmissione sono già arrivati, perché ben tornati ad Apostasia, che hanno già invaso gli studi della radio. No, nel frattempo, insomma, ho smontato microfoni, ho fatto un po' il tecnico, sì, vedi. Quindi se c'è qualche volenteroso o volenterosa che volesse, insomma, aiutarmi qui a Do It Yourself Invasion, venite che abbiamo bisogno. Nel frattempo abbiamo preparato un collegamento telefonico. Abbiamo in linea Valentino. Ciao, senti, ti fermo subito sul nascere. Sì, eccolo. Posso sì. dire una cosa? Come no? Certo. La sogniamo proprio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Però, insomma, è una storia lunga, però in radio la dovevo dire questa cosa. Però sei un po' maleducato, perché non mi ha dato il buongiorno. Vabbè. Per me il pomeriggio si dice sempre. Va bene, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio, Dario. Allora, insomma, sì, nel frattempo io cerco di fare 3000 cose, cioè tipo i tentacoli. Sì, sono un essere tipo Cthulhu. E allora, dove ti trovi? No, partiamo da dove ti trovi in questo momento. Allora, in questo momento mi trovo all'interno di un capannone nell'Agro Pontino, semibuio. Stavo facendo le prove col mio gruppo, gli Zubo. Oh, gli Zubo. Sì. Ma vabbè, sì. No, bello che le cose, insomma, ci avevo in mente tutto un altro discorso. Partiamo proprio dagli Zubo. Abbiamo avuto il piacere, insomma, di vedere, almeno per me era la prima volta che ti vedevo la scorsa settimana. Ah. Complimenti. Ah, grazie mille. No, è da quest'estate, sì. La curiosità c'era, insomma, dopo l'ottimo lavoro di Giorgioni, c'era molta curiosità di vedere questa nuova era degli Zubo, insomma. C'è una bella canna. Guarda, mi fa molto piacere. Io comunque sono entrato nel gruppo con un po' di insicurezze quest'estate, però le cose stanno andando bene. Adesso stiamo proprio in questo preciso istante lavorando su pezzi nuovi. Quindi nuova formazione, dopo la dipartita, insomma, di Giorgioni, abbiamo te alla voce, è rimasta l'altra chitarra, insomma, so che state riarrangiando un po' i pezzi. Sì, stiamo facendo soprattutto canzoni da cognizione di causa, però adesso, ecco, aria nuova, ci stiamo concentrando su pezzi nuovi, qualche cover. E cerchiamo di, insomma, di dare una spolverata al gruppo. Bene. Senti, prossimi concerti degli Zubo in vista? Guarda, in realtà nessuno, forse a Natale dalle nostre parti, però ecco, questa è una fase in cui ci stiamo un po' chiudendo in sala. Bene. Per sfornare qualcosa di nuovo, insomma. Vi state preparando, insomma? Sì. Benissimo. E vabbè, Valentino, nuova voce degli Zubo, gruppo storico grind italiano anche e non, insomma, perché con gli Zubo hanno avuto la possibilità di suonare un po' in giro per l'Italia e per l'Europa. Però questa sera Valentino ci parlerà non solo degli Zubo, ma di un altro progetto che è una fatto di carta. Che è questa fanzine che sto facendo, si chiama Disadattac, e niente, ci ho lavorato per un anno finché quasi non era diventata una barzelletta tra i miei amici, che dicevano: ma questa fanzine non uscirà mai, quei collage, quel mucchio di collage sta fermo lì. Però alla fine mi sono deciso agosto mi sono deciso a pubblicarla, insomma. Ma cioè, partiamo dalle origini, perché? Cioè, un bel giorno ha detto: faccio una fanzine. Cioè, da cosa nasce questa esigenza, questa voglia? Guarda, fondamentalmente io riporto tutto a un giorno in cui ho aperto un faldone un po' impolverato nella biblioteca anarchica Malatesta, ed era pieno di fanzine originali anni 80, cose incredibili, e là mi sono proprio un po' perso la testa, cioè me le sono scannerizzate tutte, lette da cima a fondo, e alla fine ho detto qua sei un po' qua di manca questa cosa. Sei un po' di inizio film tipo quei fantasy anni 80, no? Tipo La Storia Infinita, il bambino che si, che si richiude nella soffitta e trova questi, sì, queste, capito, vecchie fanzine. Cosa, sì, sì. Cosa ti ha colpito, insomma, di queste fanzine che poi ti ha spinto, insomma, ad iniziare, sì, questo progetto? La cosa che mi ha colpito è quella che poi cerco un po' di riproporre, è il lato meno professionale e più do it yourself della cosa, per cui sporcarmi le mani di colla, fare dei collage come mi pare, creare una sorta di giornalino, diario, dove poi confluisce un po' tutto quello che fa parte della mia vita, quindi anche, non lo so, la militanza, il veganismo, eccetera eccetera eccetera, per cui ecco, l'approccio è molto molto semplice e naif, e cerco di mantenerlo così, ecco. Guarda, io non l'ho letta tutta perché mi è arrivata in forma, vabbè, insomma, per vie traverse, no? Mi è arrivata, sì, sì, poche ore fa, non l'ho letta tutta, però la sensazione che ho avuto, appunto, leggendo alcune parti, è proprio questo approccio. Non è una fanzine dove ci sono solamente interviste ai gruppi oppure, come dire, dissertazioni filosofiche, c'è un approccio proprio dialettico con il lettore, cioè molto molto personale, sì, no? Cioè, sì, quasi, sì, un tentativo a stabilire un dialogo con chi legge, no? Sì, sì, è molto diretta, scritta, c'è proprio la volontà nelle cose che ho scritto, di, non lo so, di esprimermi come parlo nella vita quotidiana con tutti, e spero di mantenerla questa cosa, insomma. Poi ecco, come dicevi te, i contenuti sono tanti, perché tutto quel materiale che ho accumulato durante un anno, e non pensavo nemmeno di pubblicarla in realtà, e quindi sì, ci sono un sacco di sproloqui e interviste, insomma. A te è piaciuta? No, quello che ho letto mi è piaciuto molto, anche perché non è una fanzine prettamente tematica solo sulla musica o solo sul veganismo o l'attivismo, sì, è a 360 gradi come può essere la tua vita, no? Cioè... Sì, esatto, io cerco di metterci tutto, anche per me stesso, insomma, per ricordarmi un giorno di certi concerti che poi uno inevitabilmente un po' si dimentica, certe situazioni, ad esempio in un paio di frangenti parlo dei nubifragi che ho preso per andare ai concerti. E, insomma, io cerco di metterci tutto e fermarlo lì, e poterlo condividere è una cosa preziosa. Senti, vuoi anticipare un po' quello che possiamo... Questo è il primo numero, vero? Sì, esatto. Ok. Vuoi anticipare agli ascoltatori e ascoltatrici cosa si potrà trovare sulla fanzina e dove trovarla? Certo, allora, sicuramente mi possono trovare sabato 3 ottobre alle 18:30 allo ZK Squat, dove farò la presentazione della fanzina all'interno del Bread Fest. Posso aprire una parentesi? Quindi... Scusa, sì. Bitto, accendi il telefono. Chiusa la parentesi. Perfetto. Niente, no, era un tentativo. Prego, insomma, scusa. I contenuti poi della fanzine sono, insomma, io te li posso mandare in 30 secondi, parlo a perdifiato, interviste ai CIB, che sono un gruppo di Sassari, agli Arciagatus e Six Dubanta, che sono due gruppi canadesi che forse in molti conoscono, Tour Report de Ney da Cuba, The Best of Vomit in Sud America, la testimonianza di un compagno che è andato a Kobane, come dicevo un articolo sul veganismo, un'intervista a Nori, che è un ragazzo giapponese, ragazzo di più di 40 anni insomma, che suona nei Life, e mi ha fatto una bella descrizione di quello che è il punk in Giappone, come si è innestato nella loro cultura, che è un po' più rigida della nostra, con separazioni più rigide delle nostre. E più o meno ti ho detto un po' quasi tutti gli argomenti che vabbè, tocco. Poi lasciamo un po' di curiosità a chi ci ascolta. Sì, infatti non ho detto tutto. E quindi la possono, chi ci ascolta la potrà trovare al Breakfast, allo ZK Squat. Ne parleremo nel corso della trasmissione in maniera più approfondita. E quindi ci sarà proprio la presentazione ufficiale di Z Attack. Sì, sì. Ok, ma cioè di Z Attack perché? Cioè, è per disadattati, da disadattati. Sì, sì, sì. È da loro per loro. Da loro per loro. da un disadattato per i disadattati. Sì, sì. Va bene, insomma. Per tutti quelli che si sentono disadattati. Benissimo. Ok, Valentino. Allora, noi ci becchiamo allo ZK e niente. Ti ringrazio e ci vediamo presto. Un abbraccio. Sì, guarda, posso dire un'ultima cosa? Certo, Valentino. Perché è un po' grave se ce la dimentichiamo, domani mattina c'è un picchetto antisfratto per Ahmed e la sua famiglia, mattina presto, diciamo che l'appuntamento è alle 6:30 a via Mario Chiri 25, quindi tra la Prenestina e la Collatina, esattamente. Oh. Mentre un altro appuntamento importante è sabato 3, che c'è un'assemblea pubblica a piazza dei Mirti alle 17:30. La cosa si accavalla un po' con il Breakfast, però è sicuramente un momento importante di incontro nel quartiere per discutere ognuno dei propri problemi e creare insomma momenti di solidarietà come quello che si propone domani al presidio antisfratto. Benissimo, lo ripeteremo sicuramente nel corso della mattinata, appunto, di domani, e anche l'appuntamento di sabato verrà sicuramente ripetuto da questi microfoni. E ok, niente, Valentino, ti ringrazio veramente tanto di aver partecipato. Grazie a te. Ci vediamo sabato. E buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. Ciao Valentino, ciao, saluto gli Zubo. Grazie, ciao. Ciao. Ciao ciao. ce la facciamo a fare due collegamenti in un'ora di trasmissione, perché insomma, cioè, Radio Onda Rossa mica. Buonasera Bitto, Luca, Marco, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Buon pomeriggio a lei di nuovo. Come va questo pomeriggio, signor Bitto? Tutto bene, ho staccato di lavorare tardissimo e ora sono qui con la mia donzella a bere una dolce birra. Quindi in piena pericena. In piena intimità. Benissimo, benissimo. Ma ce la vuole presentare la sua donzella o è timida? È timida la mia donzella? No, ciao. Ah, ciao, ciao. Ma allora era vero? Sì, sì. Ok, perfetto. No, vabbè, c'è un problema di base di fiducia da parte mia, però vabbè. Io dirò solo cose vere. Solo cose vere, benissimo. E Bitto, da questi microfoni già l'abbiamo sentito sulla frequenza di Radio Onda Rossa in quella del 26 giugno scorso. Abbiamo avuto i Nofu insieme a Razza a Parte con i The Vile a sostenere Radio Onda Rossa in quel della SNIA. Ben ritrovato. Che hai fatto? Ben ritrovato e buon pomeriggio. Buon pomeriggio è necessario, insomma. No, dicevo, purtroppo per voi sono ancora qui sul pezzo. Sul pezzo, ok. E va bene. E che cosa hai fatto in questo periodo? Come ha passato l'estate, Bitto? Sono passato a lavoro tutti i giorni. Quindi? Poco punk proprio. Poco punk? Poco punk, poco mare, ma meglio così. Mm-hmm. Ma tanto lavoro del merda. Capisco. Quindi vabbè, l'estate da dimenticare. Però nel frattempo, ecco, tra i The Vile, sì, e tra il tour dei Nofu e tutte le minchiate che faccio con i Nofu, abbiamo organizzato il Breast Fest. Ah, quindi cioè, che è una cosa sembra fatta apposta, sembra, quindi... sì, perché d'estate la gente non c'ha un cazzo da fare, quindi se riscopre che c'ha tempo da dedicare. Ok, ma insomma, parlaci di questo Breast Fest. Quando ci sarà? Dove ci sarà? Allora, il Breast Fest sarà domani e dopodomani allo ZK Sport da Cilia, a partire dalle 18:30 fino realisticamente alle 3. Scusa, Bitto, scusa, ti blocco subito, perché qui no, abbiamo delle presenze in radio che si chiedono giustamente: ma Breast Fest, ma che significa? Cioè... Festival a Fiatella, Bretta, che... Beh, vuol dire un respiro di sollievo da questo mondo di merda. Bene. Almeno questo. Soddisfatto della risposta? Sì. Agita la mano proprio. Benissimo. Secondo me era più bandiera bianca. Sì, dice Sarreso. Sarreso la spiegazione. Sì. Va bene, quindi interlocutore. Senti, allora venerdì da che ora lo ZK? Allora domani alle 19:30, questi sono tutti orari realistici, cioè a differenza degli altri anni in cui abbiamo provato a fare la storia, diciamo a tutti che c'è l'una del pomeriggio, così forse per le 9 viene qualcuno, dichiareremo solo orari. Cioè, questa storia dell'orario non è un giochetto, stai comunicando agli ascoltatori e alle ascoltatrici l'orario reale. Esatto. Ok, quindi domani alle 18:30-19 proietteremo il documentario Roma Hardcore. Bellissimo, tra l'altro. Nel frattempo ci sarà un cena vegan. E dalle 8:30-9 in poi incominceranno i gruppi, che domani saranno 8 gruppi, quindi cioè, chi non crede agli orari è un folle, quindi, perché se iniziassimo alle 11 di sera come tutti i concerti a Roma, iremo alle 7:30 col cappuccino, diciamo. Ok, un concerto che probabilmente finirà alle 7:30 comunque col cappuccino. Sì, magari senza cappuccino, spero. Allora, e gruppi che parteciperanno, cioè, un po' lo vogliamo dire il programma? Chi? Allora, è difficile, è una domanda difficile perché lo sono tante tanti. Ci provo. Vabbè, qualcuno poi. Allora, domani ci saranno 8 gruppi, 2 da Roma, che saranno i Lexicon Devil, e anzi tre da Roma: Lexicon Devils, Light, Bob Hound e The Light Experience, che sarebbero Light Bob più Hound direttamente da Ostia Capitale. Bene, bene. E ci saranno i fantastici Dirty Jobs. Questi saranno gli unici gruppi di Roma di domani. Quindi gli altri cinque saranno tutti gruppi da fuori. Saranno tre gruppi di Roma al giorno, diciamo. Il giorno dopo ci saranno Ultimi, Leviathan e Godog. Per il resto ci saranno, se non erro, 10 gruppi da fuori Roma. E uno addirittura dall'Austria. Bene, bene. Dall'Austria, vabbè, facile, insomma, con la locandina davanti. I Discure? I Discure, esatto. Ok. Poi Contatto, no, White Rag, esatto. I The Rasters da Benevento Napoli, se non mi sbaglio. Esatto. Motosega, Sud Disorder. Motosega da Napoli, Sud Disorder dal profondo sud della Puglia, Taranto. I Godog quando suoneranno? Godog in anticipazione ufficiale sarà l'ultimo gruppo del Brescia. Spettacolo. Bene, bene. Insomma, ZK Squat, via Epaminonda 12 ad Ostia, ci sarà. Via Epaminonda 666. Epaminonda, certo, è normale. Sì, è vero, è vero. È segnalato come 666. Sì, sì, sì. In realtà sì. So che insomma c'è un po' di gente che sta venendo da fuori. Ci sarà la possibilità di accamparsi lì allo ZK? Guarda, se avrete la tenda, sì, non ci saranno problemi, ci sarà tutto lo spazio che volete. Se non avete la tenda, qualche cosa ce la inventiamo. Però venite, il punk lo accoglierà a braccio aperto. Benissimo. E c'è qualcuno invece che vuoi che non venga? No, di solito si invita sempre a venire, ma non so. Cioè. Allora, no cani, no cani, no nazi, no omofobi, no sessisti, no presi a male, e no. Non venite, dai. E infatti, ma chi te lo fa fare? Cioè, è una faticaccia. È una faticaccia, lascia per. Va bene, quindi venite solo se siete determinati. Determinati, e se non, se le persone non si conoscono di persona, sono una bella cosa. Perfetto, ok. Va bene, dai Bitto, allora ci vediamo questo weekend, proveremo a registrare qualcosa, quindi da paura. Vediamo un po'. Ok, dai, raga, venite che sarà una bella festa, e soprattutto tutto il ricavato andrà in benefit, non ci metteremo neanche un centesimo in tasca. Perciò, al di là della festa, delle cazzate, della musica, ci sarà un benefit di fondo. E per quanto sta cosa possa, cioè non vogliamo che sta cosa passi troppo inosservata. Certo, lo ribadiamo. Insomma, l'invito che rilanciamo da questi microfoni, venite tutti e tutti allo ZK Squat, Ostia, via Epaminonda 666. E domani è sabato, due giorni belli cicciotti, e insomma sostenete il punk e l'autoproduzione, e ci vediamo questo weekend. Dai, va bene, bella Bitto, ciao, un abbraccio, ciao. Mentre vanno inesorabili gli Ostiliter, noi passiamo un po' di gruppi che saranno presenti domani e dopodomani allo ZK Squat per il Breakfast. Li abbiamo anticipati prima, loro dall'Austria, Discure. E questi erano i Discure dall'Austria. Troveremo al Breakfast anche il contatto. E questa è la loro Non ci credo. E questi appena passati erano in motosega. Ed insieme a loro ci saranno anche gli Spirale. Mentre sono passate le 10 dopo 2 minuti, diamo il bentornato alla trasmissione che va a chiudere le trasmissioni del giovedì sera. Benvenuta a Apostasia. Quindi rimanete all'ascolto. Andiamo a chiudere così una puntata dedicata al Breakfast. Quindi l'appuntamento è il prossimo giovedì dalle ore 21. Vi anticipiamo che andremo a conoscere i territori paludosi di Latina e dintorni. Quindi avremo ospiti il collettivo Swamp. Un saluto a tutte e tutti. Il saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. A giovedì prossimo, bella!